l'Unione Europea serve anche a questo. Per esempio, serve ad avere un caricatore unico per il cellulare, che sembra apparentemente una cosa banale, invece è un problema quotidiano, un problema di costi inutili, ma anche di rifiuti, anche di oggetti che usi, cambi cellulare, devi cambiare anche il caricabatterie, insomma. Quindi uno ci pensa, sembra un'idea balzana, un'idea banale, e invece è un'idea grande, un'idea che aiuta il cittadino nella sua quotidianità. Beh, martedì succederà qualcosa di particolare riguardante il caricatore unico per il cellulare. Per capire cosa, abbiamo invitato Andrea Marese, addetto stampa del vicepresidente della Commissione Europea, responsabile per l'industria, Antonio Tajani. Ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Tu ce l'hai già questo caricabatterie unico? Beh, no, non ce l'ho già, perché insomma, tempo è introdotto la questione dicendo, insomma, che è una rivoluzione molto importante e anche un'iniziativa della Commissione Europea, a cui la Commissione Europea tiene particolarmente, insomma, da diverso tempo chiedeva questa rivoluzione. Diciamo che da martedì non avremo il caricatore unico nei negozi, ma martedì il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, riceverà da rappresentanti dell'industria il caricatore, che sarà quello poi che verrà introdotto nel mercato. Abbiamo un'aspettativa di entro l'anno massimo, penso fino al massimo a fine novembre di quest'anno. Andrea, tu lavori lì, insomma, lavori in commissione, quindi vedi, ecco, questo è un segno tangibile di quello che può portare a avere una collaborazione tra le nazioni, no? Secondo me è una cosa molto importante, una delle tantissime iniziative che la Commissione Europea mette in piedi e realizza a favore dei cittadini. E, diciamo, ci sono tantissimi di questi esempi, questo è semplicemente l'ultimo dei tanti, e mi piace sottolineare il fatto che la Commissione Europea in questo caso non ha dovuto forzare gli Stati membri ad adottare un regolamento comune, una legge, così via, ma ha messo insieme sul tavolo tutti quanti i rappresentanti dell'industria europea e gli ha detto, insomma, quali erano le ragioni per cui era necessario, secondo la Commissione Europea e secondo tutte le iniziative, tutte quante, insomma, le lettere e le lamentele che riceveva in tutti questi ultimi anni, avere un caricatore unico per i cellulari. Tutti noi sappiamo personalmente cosa vuol dire avere un caricatore unico e non dover chiedere a un amico, insomma, un caricatore diverso, il viaggio, avere diversi cellulari a casa, avere diversi caricatori, insomma, questa è una cosa, è una rivoluzione secondo me fondamentale. Infatti mi stavo chiedendo, ecco, ma in un fatto del genere, come la Commissione si accorge che c'è un'esigenza? È così, cioè, è stata segnalata da mail, da lettere, da proteste dei cittadini? La Commissione non vive in un palazzo, diciamo, di vetro, ma insomma, ma è in contatto continuo con la realtà europea, quindi si cala nella realtà europea, va negli Stati membri, a continue conferenze e scambi di iniziative, insomma, con la realtà dei 27 Stati membri, e quindi ha capito che, insomma, che era molto importante, ma non solo che l'ha capito, ma ha dovuto far capire all'industria, e l'industria mi pare che, insomma, sia stata ben recettiva, e ci troviamo oggi con una tecnologia già disponibile per creare, attraverso questo ingresso USB, un nuovo caricatore disponibile dal 29 dicembre scorso, e adesso l'industria sta facendo gli ultimi test per poter creare, insomma, a livello senza rischi, senza nessun, certo, per avere un quadro completo, sicuro e certo, avere questo nuovo caricatore. Ma noi ci immaginiamo che, diciamo, che questa data sulla quale l'industria si è impegnata fino a novembre 2011 sarà anche anticipata, insomma, visto che, insomma, mi sembra che i caricatori siano quasi pronti, quindi magari ci aspettiamo un'azione anche di marketing, mm-hmm, in qualche casa, e quindi, diciamo, tutto questo processo possa accelerarsi, e quindi alla fine potremo avere prima possibile questo benedetto caricatore unico. Ok, un sito onechargerforall.eu l'abbiamo già pubblicato nelle nostre pagine in Facebook, dove viene spiegato anche il tutto. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie.